stanno sopprimendo. Odia! Odia! Odia! Odia! Soltanto violenza. Odia! Odia! Odia! Odia! Sergenti e colonnelli pagati dallo Stato per distruggere i cervelli, studiate nuovi.